presenta... Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Buongiorno a tutti, mi ripeto e mi dimetto dalla carica di sindaco. Le dimissioni della Capozzo non chiudono affatto una vicenda che rimane molto imbarazzante per i 5 Stelle. Grillo e Casaleggio sapevano tutto fin dall'inizio. Prima hanno cercato di nascondere la verità e poi si sono rifugiati nel silenzio. Spieghino come sono andate le cose. A Quarto poi il Movimento 5 Stelle, di fronte alla minaccia della Camorra, scappa, lasciando i cittadini di Quarto soli. È una conferma del fatto che i 5 Stelle non sanno amministrare alcunché. Ed ora veniamo a cosa ha prodotto tutto questo e quali sono le conseguenze di questo comportamento irresponsabile del Movimento. L'amministrazione del Movimento 5 Stelle, Quarto, va a casa. È una sconfitta politica per il Movimento ed è una vittoria della Camorra sul territorio. Lo psicodramma si è consumato a Quarto, ombelico d'Italia, centro del mondo, luogo di tutti i problemi politici italiani, europei e mondiali. A Quarto sono piombati da giorni cronisti, giornalisti, inchiestisti. Ma dove sta Quarto? No, non lo so. Fino a qualche tempo fa gli italiani manco lo sapevano. Però ora, a Quarto, la sindachessa, il sindaco insomma, Rosa Capuozzo, si è dimessa. Ma non è, dai, questa la notizia del giorno. In questo venerdì, è venerdì, signori, venerdì. Ho detto venerdì, Peter Bescapè. Domani lavori. Porcaccia la miseria. Ti ho visto, infatti, accogliere questo venerdì come se fosse un giovedì qualsiasi. Dai, che è venerdì. Lorenzo Nespoli invece sorride un po' di più. Si chiude la 142esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Niente, non ce l'abbiamo fatta neanche in questa 142esima. Ma sono sicuro che la 143esima, porca miseria, ha un qualcosa che comporta qualche svolta. Dai, bisogna essere ottimisti. Ma non è questa la notizia più importante? Ne ho raccolte alcune sui giornali. Per esempio questa non è male, non è male, da Libero. Il canone della RAI. Alla RAI hanno messo su un telefono per informarsi sul canone RAI. Costa 50 centesimi al minuto, cari signori. Per cui è bella questa cosa. Uno fa 10 o 15 telefonate e poi, quando ha capito tutto benissimo come deve pagare il canone della RAI, nel frattempo l'ha già pagato in telefonata. E beh, è bella questa cosa. Beh, dai, e non è male, non è male. Dai, apriamo il Parlamento, perché questa non è male, eh? Adesso non è male. Il ministro Boschi, anche oggi tante notizie sul papà Boschi, su papà. Allora, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, è il numero per i vostri WhatsApp, anche se volete. Oh Milan, hai anche tu WhatsApp? Sì, potete mandare anche gli audio. Sapete che su WhatsApp potete mandare gli audio, non potete chiamarci, perché sennò non è che vi posso rispondere in diretta, come faccia la nostra amica Françoise che ci sta chiamando. Però non è che posso chiamare, rispondere da Monte Carlo, ci segue. Allora, oggi abbiamo il ritorno intanto del direttore di Affari Italiani, Antonio Maria Perrino. Perrino, buongiorno, come stai? Eccomi, buongiorno a voi, bene, benone, tutto grazie. Tutto a posto. E poi qua torna, io voglio subito dire la seconda notizia che mi ha molto incuriosito, per Luisella Costamagna. Buongiorno Luisella. Buongiorno. Ah, questa proprio, ho pensato parole. ho pensato a te, quando ho letto la dichiarazione di Sami Abu Yusuf, tu conosci costui? Immaginatelo un po' barbuto, con gli occhiali, così, fa l'imam in una moschea nell'Alta Renania, in Germania. Ha detto che la colpa di Colonia, di tutto quello che è successo, è del profumo delle tedesche. Svergognate! Incommentabile! Vergognatevi con questo profumo che attira e sfrugugna gli istinti più bassi dei maschi, Era un profumo e una colonia. È una colonia, esatto. Vabbè. Questo imam ti sta un po' simpatico, che ha fatto questa dichiarazione? No, mi sta affatto simpatico, insomma, su Colonia ne sono uscite di tutti i colori, al di là della vicenda in sé, che è terrificante. È abbastanza, ci mancava quella di questo imam. Allora, cari amici, come state? Luisella, tutto bene? Bene. Dice sono le 6:36 minuti. I verdiniani sono finalmente entrati in maggioranza. Ecco, prima. Andrea Romano, che attaccava il Movimento 5 Stelle, quarto, per uno che è entrato nel PD e adesso le ha affiliato, anche se poi Verdini aveva smentito il termine, che già insomma diceva tutto. Verdini. Questa effettivamente non è male. La politica è sempre questo. Un tempo un po' lontano, caro Perrino, un po' lontano si faceva tutto per un piatto di lenticchie. Adesso sono bastate 3 vicepresidenze alla commissione finite ai verdiniani per sostenere. Ma che bella questa alleanza, è il partito della nazione, ti piace Perrino? Sì, noi l'abbiamo raccontata per primi quando appunto già più di un anno fa abbiamo detto che insomma Verdini era in gran movimento e secondo noi c'è sempre stato lo zampino di Berlusconi dietro i movimenti. Ma dici? Cioè in realtà è un finto litigio quello tra Berlusconi e Verdini. Noi l'abbiamo sempre descritto così su Affari Italiani, e me l'avevano detto dall'interno del movimento di Forza Italia, del partito, che avrebbero inscenato una discussione finta perché bisognava dare un appoggio a Renzi nella logica del Nazareno. Fantastico. Ma sai che adesso mi viene in mente, aspetta Luisella, adesso ti dico, mi viene in mente, ieri un ascoltatore ci ha chiamato alle 8:15 a dire: io sono sicuro, prima o poi verrà fuori che tutto quello che stiamo vedendo nasce 3 anni fa, quando Renzi, che non era ancora premier, andò ad Arcore da Berlusconi. Secondo me si sono messi d'accordo, tutto quello che c'è adesso è il prodotto di un grande l'accordone, Luisella. Questa non è male, Verdini che litiga fintamente con Berlusconi e si infiltra nella maggioranza. Si infiltra, no, l'hanno voluto, ha votato al Senato, dopo che anch'io sono convinta che Berlusconi sia all'opposizione con Salvini e al governo con Verdini. La rima, ma è un dato di fatto. Bravo, però, geniale. È vero che Renzi arriva a Palazzo Chigi portando in dote il patto del Nazareno, cioè Berlusconi che rientra di fatto, appoggia il governo sulle riforme, poi c'è stato appunto questo finto allontanamento, quindi lui tiene i piedi in due scarpe, in fondo Berlusconi è al momento in difficoltà e da un lato combatte il governo Renzi all'opposizione con Salvini e dall'altro però entra in maggioranza con Verdini. Guarda che geniale questo! Il fondativo del governo Renzi, che da sempre è stato legato a Berlusconi dall'incontro ad Arcore in poi. Dillo, cara Luisella, Berlusconi ce l'ha fatta su un'altra volta. più che altro è che Renzi ha realizzato il suo programma, cioè il problema non si può dare sempre solo la responsabilità a Berlusconi, Berlusconi fa i suoi interessi, Renzi invece ha realizzato nei fatti dall'articolo sì, 18 che poi la riforma della RAI, il controllo dei mezzi di informazione, ha realizzato il programma, il sogno che Berlusconi non si sarebbe mai potuto permettere. No, però è bella questa cosa. Ma scusa, ma allora direttore, stanno tutto, cioè stiamo vedendo tutto delle finte quando Berlusconi attacca ogni giorno Renzi, dice non ha il carisma, sì, non è capace. Berlusconi di lotta e di governo, si diceva una volta. Berlusconi di lotta e di governo. Io devo dire che in realtà con Salvini non c'è nulla, al di là di qualche incontro ad Arcore, magari sull'onda della comune fede rossonera. Non vedo politicamente una convergenza tra Lega e Forza Italia, quindi no, Berlusconi senz'altro filoverdiniano è tutt'altro che coerente con una politica di centrodestra, per ora fa grande movimento, Forza Italia al 5%, non riescono a produrre un candidato da nessuna parte, Roma, Milano, e quindi no, Berlusconi è proprio... D'altra parte su Berlusconi pesa la pressione forte del cosiddetto partito di Mediaset che gli suggerisce massima prudenza, appoggio al governo, stabilità, riforme, perché Mediaset vivendo di pubblicità, ma che bello questo, di stabilità. Che belle letture, mi piacciono questi bei complottori, no ma davvero, non sono ironico, mi piace questa lettura politica, insomma è tutto... No, però il direttore non sembra, dice, non fa più una politica di centrodestra Berlusconi, non le sembra che invece Renzi la stia facendo una politica di centrodestra? Sì, appunto, Renzi è figlio di quell'affermazione storica. Scusa, se sta portando avanti tutto questo disegno. Gianni disse che l'Italia aveva bisogno di una politica di destra applicata da un uomo di sinistra. Eccolo là, Matteo Renzi. Matteo Renzi, fantastico. Renzi è figlio di Agnelli. Attenzione, Renzi è figlio di Agnelli, ma rivelazioni incredibili. No, questa è di questa espressione di Agnelli, la politica di destra fatta da Berlusconi non ha funzionato. No, pensavo che 24 mattino riscrivesse l'Italia adesso col figlio di Agnelli e mi ero un attimo. Figlio di questa primogenitura, certamente sì. Figlio con le virgolette, dai, per rire. C'è un'inversione una volta, ma per certa est, in questo caso pater certo Berlusconi, est, Berlusconi. Berlusconi la madre, sulla madre abbiamo tante idee. Ci ho detto, vi sorprenderò, ma vi dirò anche che sull'altare del realismo domandiamoci se questi sforzi e queste contraddizioni evidenti peraltro non siano in questo momento ciò che è necessario per dare per a questo paese messo male uno straccio di governo. Quindi questa è un'altra questione. Allora intanto voglio salutare, da Oslo ci stanno seguendo, Raffaele ci fa notare che a Oslo ci sono meno 17 gradi. Come va Luisella dalle tue parti a temperatura? No, qua a Roma fa freddo, da una settimana fa freddo, però abbiamo avuto un Natale caldo, sono stata pure a Torino, faceva caldo praticamente. Guardate detto, che bello il nostro mondo. Salutiamo invece il nostro grandissimo Remo, il nostro cuoco dalla Digue Seychelles, 85 gradi di umidità e 30 gradi di temperatura. Queste sono cose che capitano. Anche da Lucerna ci stanno seguendo e vogliono sapere tutto di quarto, in fibrillazione su quarto ombelico del mondo. Tutti. Ma sentitelo Verdini, ve lo ricordate un po' di tempo fa da Maria Latella? No, l'ho rispolverata perché insomma quando Bravo. Era accusato di trasformismo e lui cantò. Maggioranza, sai, è come il vento che rischia di finire in miglia vacca, quando Gotor si sveglia e poi si incanta. La voce è magnifica. Supera nel testo che Cozzalone con la sua ultima canzone tormentone, no? No, effettivamente, dai, il voto alla voce, Luisella, almeno 8,5, se non 9. No. Eppure stonato. Ma come stonato? Vola, ma no! Vola, vai. Ma non è vero, ma non è vero. Don Benito Verdi del mondo è diventato quarto, ci dimentichiamo delle banche, degli scontri, del malaffare, ci dimentichiamo che i nuovi alleati del Partito Democratico, che è una minoranza che si inalbera ma non fa niente, ne dica del PD, e che hanno Verdini come alleato. Vabbè. Ora anche gli hanno dato le vicepresidente, le presidenze delle commissioni. Ma tre poltroncini, tre strapuntini. Vabbè, ho detto 85 gradi di umidità, sì, volevo dire 85% di umidità. Ovviamente, mamma mia, mi sono sbagliato alle 6:42 minuti. Sono cose che fanno crollare le borse, anche queste. Allora, a proposito delle borse, delle banche, l'ultima di Papà Boschi, per carità, ma non ci vogliamo accanire su Papà Boschi, ma accaniamoci pure. Allora facciamo così, mandiamo il traffico. Mandiamo il traffico, perché Luisella Costavagna si deve accanire. Un attimo, allora ci vuole un po' di tempo. Il traffico, poi l'accanimento sul Papà della Boschi. Il primo premio va al traffico con il pelo lungo e le corna belle. Sul caso Mancini-Sarri vorrei dire che se mandiamo i nostri allenatori a lavorare nel mondo civile, non è che poi dobbiamo sorprenderci se quando tornano in Italia si comportano da persone civili. Consentitemi, tutte le mattine io ascolto Alessandro Milan. Per me è come un Viagra, salto sul Pradellino e dico: Cribbio, forza Milan! Omina, sono fiorentino. Mancini se la prende perché Sarri ne ha dato del finocchio. Ma noi toscani siamo fatti così. Dopo un minuto ci si riordina neanche nuda, siamo bischeracci. Dopo si va al bar, si beve un bicchiere di vino e via, no? Ciao! Signore Milan, come stai? Qui non si capisce più niente di questi politici, eh? Senti un po' che è successo nel paese qui vicino. Stavano discutendo della sistemazione del campo sportivo. A un certo punto salta sul segretario comunale e dice: sti lavori non si possono fare perché non ci stanno più le sordi e poi c'avevo anche un milione di deficit. Allora salta su un consigliere e dice: sor segretario, e beh, allora dovremmo andando quelli, no? E tutti si sono messi a ridere come matti. Alessandro mio, ma come famo andare avanti in questa maniera? Te saluto, ciao. È tornato Angelino, il nostro contadino di Terni, evviva! La zappa ci vuole, Eccoli. La zappa da 7 chili! Con la zappa, siamo con Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it, e Luisella Costamagna. Allora, l'accanimento. No, allora, terapeutico. La vicenda è questa. Papà Boschi qualche anno fa è stato indagato. Oggi il Fatto Quotidiano intervista. Non è male. Sì. Intervista l'ex socio suo calabrese, che dice: ma che mafia, non sono mai stato indagato. Però conferma che Papà Boschi si prese 250.000 euro in contanti per vendere un terreno. E ora però è venuto fuori che il procuratore di Arezzo, Rossi, aveva negato di aver mai avuto rapporti col papà. E adesso il CSM gli chiede: ma come, lo avevi indagato? Adesso sì, è stato archiviato, ma ci hai mentito? Insomma, ma che sta succedendo, Luisella? Ma tutto questo comporterà problemi per il ministro? Ministro Maria Rossi. Ma ci mancherebbe, cioè voglio dire, dovrebbe esserci l'ennesima mozione di sfiducia, però stanno venendo fuori continuamente cose sul papà della Boschi che è alla faccia della persona per bene, dalle responsabilità indubbie. Ma che cosa viene fuori? Cioè, è stato indagato, è stato archiviato, quindi non ha pendenze. Allora, il discorso è che c'è una responsabilità di fatto nel crack della Banca Etruria, che ne dica il ministro, lui era nel consiglio d'amministrazione dal 2011, quindi con ruoli anche operativi, comitato esecutivo, comitato controllo e rischi. Ruoli apicali. Ruoli apicali. Esatto. Dopodiché è venuto fuori gli incontri con Massoni, che è un altro tassello importante, e la persona per bene, come appunto viene fuori adesso, fu indagato e archiviato dal procuratore Rossi, che tra l'altro è consulente del governo, quindi c'è stato il problema di un conflitto di interessi, di incompatibilità, e lui disse al CSM a dicembre: non conosco nessuno della famiglia Rossi. Questo è il quadro. Però il problema è che lui non solo fu indagato e archiviato per turbativa d'asta e estorsione, però è stato anche multato dall'Agenzia delle Entrate per evasione fiscale e riciclaggio. Cioè, questo a dire, però la questione è se corno, ma dico va bene, cioè nel senso che è l'elenco della situazione, cioè la fotografia è questa, quindi per Riro si dovrebbe dimettere la Boschi. Poi ci sono le responsabilità anche di Renzi, perché nel frattempo è saltato fuori che attraverso una società anche Banca Etruria ha finanziato la fondazione. Va bene, ma qui la questione che non si danno i soldi ai risparmiatori che li perdono e si danno alla Leopolda. La questione politica è la domanda: Perrino si deve per queste cose dimettere? Io penso di sì, penso che Renzi dovrebbe chiedere al ministro Boschi di dimettersi. Una volta si diceva per motivi di opportunità, ecco. Ma crolla tutto se si dimette il ministro Boschi. Ma cosa crolla? Ma dai, ma non è che può sostituire il ministro Boschi, eh? Come dire, lui e la Boschi sono l'architrave del governo. Però l'alternativa è che Renzi si porti dietro una vicenda che lo azzopperà per mesi, perché queste vicende sono lunghe, complesse, ci sarà un processo, ci saranno dei rinvii a giudizio, e questo appunto inficia l'intera credibilità di Renzi e del governo. Ma sai perché non inficia, secondo me? Perché la vecchia strategia politica in questi casi è primo negare e ha negato, poi secondo minimizzare, e la terza linea politica è distrarre se non riesce a fare queste due cose. E quindi parli d'altro, parli delle risse con l'Europa, parli delle risse d'Europa, parli di quarto, parli di antifannulloni. Però dici Perrino se la porterà sempre appresso, non è che sì. Ripeto, sarà una palla al piede per Renzi, che invece avrebbe bisogno in questo momento di uno scatto di reni, visto che la sua azione governativa si è un po' impantanata dentro difficoltà di maggioranza, numeri scarsi. Sì, ma temo che chiedere le dimissioni della Boschi non può essere una cosa, anche Luisella, dal punto di vista strategicamente politico, non è che può chiedere dimissioni. Mettiamo che la faccia dimettere e quindi la vicenda, ecco, l'ho chiusa, l'ho risolta, se la porterebbe appresso molto di più, molto di più. Anzi, ti dirò, io all'inizio ho avuto la sensazione che sulla Boschi ci si stesse in qualche modo accanendo, e dunque quando si vedono questi movimenti così scatenati verso una persona, la mia tentazione è di difenderla. Ma ora, alla luce delle cose che stanno venendo fuori, il suo discorso in Parlamento si rivela molto debole e un po' bugiardo, perché c'è più di un elemento che avrebbe consigliato alla Boschi: prudenza e forse senso dello Stato. Ella chiese in passato le dimissioni di ministri che avevano responsabilità. La cancelliera, ella mi piace, è un modo di parlare proprio. Sentite Perrino come parla, ella, cioè, capite? Dopodiché è un dato di fatto che il crollo della Boschi vuol dire il crollo di Renzi, anche perché non è che può passare. Cioè, io vorrei aggiungere, al di là dei finanziamenti all'Aeropolda, anche ci sono le notizie del papà di Renzi che sarebbe in affari con l'ex presidente della banca Etruria, indagato per omissione di conflitto di interessi, avrebbe mentito sulla dichiarazione patrimoniale che, in quanto padre del presidente del consiglio, è tenuta a rendere pubblica. Si trova nel sito del governo, in cui diceva: non ho acquistato nuove società, non ci sono cambiamenti patrimoniali, e invece sarebbe in affari con questa società, anche questa coinvolta. Però è un dato di fatto che questa vicenda coinvolga tutti, ed è un dato di fatto, secondo me, la cosa più grave per dare un po' di umanità a tutto questo è quello che ho sentito l'altra sera nell'intervista alla moglie del pensionato suicida, perché c'è un morto in tutta questa storia, tra l'altro, e che ha detto che nessuno del governo si è fatto sentire. Cioè, qui ci sono dei risparmiatori che hanno perso tutto, che vuol dire perdere davvero, non riuscire a sopravvivere, una cosa difficilissima, e questa donna non ha avuto neanche la solidarietà diretta del governo, dei ministri, di nessuno. Allora, però nell'ultimo minuto voglio chiedervi un giudizio sintetico per chiuderla su questa vicenda. Sarri Mancini, ma sentite qui Danna, i senatori o i politici quando aprono la bocca devono sempre dire a volte, in alcuni casi, delle minchiate. Non è che sono obbligati a dichiarare su tutto. Danna, Vincenzo Danna. Questo è un momento nel quale c'è molta gente che si indigna facilmente. Sono parole che forse si usano anche in famiglia, si usano tra gli amici, si usano tra persone a cui si vuole bene e per le quali c'è il rispetto. A cui si vuole bene e ci vuole Frocio, Finocchio, vabbè. Allora io accetto se il fiorentino ci dice che si dice in Toscana, Finocchio, andiamo a farci un bicchierino, e questo lo posso capire, ci sta, i toscanacci sono così, sono bischeri, sono, e va bene. Però adesso dire, sono cose che si dicono tra persone che si vogliono bene in famiglia. No, vabbè, io lo definirei un episodio di bullismo senile. Bullismo senile, ma non è tanto vecchio, c'ha 57 anni, sai. Ma siccome il bullismo riguarda un po' i giovani, gli adolescenti, in questo caso siamo a comportamenti da bambini da parte di un allenatore che fino ad ora stimavo, ma che da questo momento ho cancellato dalla mia visuale. Perrino contro il Napoli, tifosi del Napoli, Perrino è anti-Napoli. Tu, Luisella, che dici, Sara? Vabbè, io da juventina sono anti-Napoli, insomma, per forza di cose. Al di là di Sarri, come al solito, la giustizia sportiva, che non è omofobia. Poi mi preoccupano di più le dichiarazioni fatte dal presidente della FIGC Cavecchio. Su quello avrei voluto un intervento secco e un passo indietro. Cioè, Luisella è juventina. Danna, ricordiamolo che è lo stesso che fece i gestacci al Senato ed è il nuovo alleato del Partito Democratico. Verdini, è l'uomo che avanza, il nuovo che avanza. Anche tu, Luisella, sei juventina. Ma che cos'è? Ma tutti juventini. Perrino, tu a chi tieni? Anch'io juventino. Ma porca c'è! Luisella, abbiamo troppi punti in comune, compresa la laurea in filosofia. Quindi. Vabbè, insomma, adesso. Tutti juventini. Ma mi circondo di juventini. Ma cosa è che mi voglio così del male? Senza saperlo. Boh. Ciao, vi saluto. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori. Sono le 7:19 minuti. Non sentite quel profumo? Che vi fa dire è venerdì, cari amici. Allora si chiude la 142esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Guardiamo la prossima con ottimismo, è come sempre con ottimismo. Dai, che è il momento di leggere i giornali. Forza. È per l'appunto venerdì 22 gennaio, le aperture. Draghi la fa da padrone sul Sole 24 Ore, banche italiane con alti livelli di garanzia, così dice il presidente della BCE. Così il Corriere della Sera, Draghi rassicura le borse. Anche Repubblica, Draghi, la BCE pronta a tutto, le borse volano. E ancora il Messaggero, banche, Draghi scalda le borse. Il Giorno, Draghi in campo, borse su. Il Giornale, Draghi salva l'Italia e Verdini salva Renzi. Qui ecco che c'è la politica che entra in gioco. Anche per il Fatto Quotidiano, Verdini gli salva la schiforma e Renzi gli regala tre poltrone. Sapete che il Fatto definisce la riforma costituzionale la schiforma. La Stampa, l'Unione Europea mette sotto esame le frontiere. Libero invece, come evitare le trappole del nuovo canone RAI. Il titolo invece dell'Unità è su Quarto, le dimissioni del sindaco Rosa Capuozzo, fallimento a 5 Stelle, questo è il titolo di prima pagina. Voglio partire da che cosa? Riannodiamo i fili con la notizia che ha coinvolto l'ex amministratore delegato di Expo Sala, candidato alle primarie del centrosinistra a Milano, perché oggi il Giornale, che aveva dato per prima la notizia di un architetto che ha sistemato la villa, ha lavorato per la villa di Sala in Liguria, è stato anche l'architetto di Expo, e Sala ha detto è vero, ha preso 110.000 euro da Expo.